Ciucucciu. Minuccetto, ci sei? Minuccetto. Minuccetto, dove sei? E attento, chiamati. Attento, gufo tristo. Davvero? Io. Hai fatto una sparagiuggi. Mettino, no. No, ti porto io, ti c'è solo me. Cosa così ho trovato? Ma... Se dove cavolo? Ma che nome non me? Ma a cosa provo andare? A Maciaculetta? Lì è zona stesso, Maciaculetta? Dove cavolo è? Alle parti di Bancali. Sì, ma ti... mi sono stufato, credimi. Andare qua, andare là, aspettare benzina, non trovarne. Non so dove c'è il carcere di Bancali stesso. Sì, lo so. Quelle chiusure lì, un tempo ce n'erano un bel, poi giù dalla parte opposta del carcere lì a Santa Maria lo stesso ne metteva un bel, io quando lavoravo lì ne facevo un bel stesso, ma sono un bel che non ci vivo adesso. Sì, vabbè, no vabbè, un po' ce li ho trovati, non è che non li ho trovato, però vedo gente che ne porta un bel. Tipo un ragazzo, li ha messi tutti su un muretto, ma ne aveva tipo 4-5 kg. No, io, vabbè, non ne sto cercando, però se li trovo un po' me li compro. Ah, c'è un tipo, nel mio gruppo li ha messi, un chilo, 10 euro. Com'è? Buono? Come prezzo? No, 85 euro, 80 spara, ce ne sono un bel, mi auguria, vedi? Se riesco a trovarli già li prendo. Ma la 27 non la stai più usando, Lu? No, qua ne ho staccato tutto. Sono diversi giorni lo attacco, la signora Giugana. A casa arrivo tardi e non c'è mai nessuno, cosa la tende a fare? Alla fine non lo sto più usando. No, e noi siamo sino io notte sino a mezzanotte qualcosa anche. Sempre sul 20. E chi? Tu? Vabbè. La squadra. C'era Marco Condor, c'era Scorpion, c'era Diaburi, c'era Giorgione, Salvatore Tipitù. Dormito sì. Giorgione, chi è? Sandro Di Alghero. Ah, ho capito. Vabbè, non lo sapevo. Ma state facendo tardi fine settimana? C'era Occhi di Gatto anche. Ho capito, vabbè, così tutti. Però alla fine io a casa arrivo sempre tardi, dai. Molte volte arrivo, vabbè, tardi, nel senso 9:30, gente non venisce uno, manco ne accendo. Adesso che lo so, c'è qualcuno, al 20 sempre. Ehi, la sera dopo mangiato, dai, ogni tanto ci facciamo una chiacchierata, dipende. Ho capito, dai. No, però sta cazzata da che io non ci arrivo da qua, manco morto. Ma comporto Torres, mi sento un po' malapena se ti fidi. Vabbè dai, appena lascio che lo so già l'attacco. Andare. No io vabbè. Adesso sono tutte accese ma non c'è nessuno lo stesso. Poco fa deve essere che c'era Antonello Pomponi o forse in questa frequenza. E ho chiamato mio figlio a abbassare anche una Viugana di Fabidà. Ero divanato. E non c'era un'anima? Non so, c'era Antonello e qualcun altro, però non ho, abbassato, non so con chi era. Ma tanto non vuoi più nessuno la baracchina, metti, va. Piano piano, va, non sentirei più nessuno. Vabbè, è un gusto ogni tanto, dai. Adesso ne accendo un po' e vediamo cosa c'è in giro. Prova un po' a vedere se qualcuno lì. Qua c'è sempre gente comunque. Uno ci sia Gio Maria, Graziano, Tore, Ma dove sei la Marina tu? Io, adesso, no, da casa non ti sento con questa, cioè, Mari ti sento ma non arrivo da te. Già, stai arrivando senza segnale, solo di radio. No, tu sei l'autista. Vabbè, che vuoi che dica, ho l'antenna esterna qua. Ah, io l'antenna esterna non ne ho, non mi interessa manco metterne qua. visto la fantasia che sta passando di Ghiglia e della 27. Ma di 27 cosa è rimasto? Allora, di 27 c'ho il Typhoon, premio MP4, poi c'ho il Mobicom MP40, due alimentatori, no, già ne ho cose. Ascolta, un alimentatore ce l'hai a comprarlo, a venderlo? E quanti ampere? Almeno 20. Guarda che ci sono, questa non è una cazzata, io c'ho quello, a me me l'ha regalato Gio Maria, un po' modificato, è un 30 ampere mi sa, di quelli che ti fai collegamenti tu, cioè l'ingresso da 2,20 poi l'uscita a 12, questa è una cazzata, non è cosa la sai, vai su eBay, con 20 euro lo compri. Ah, ma tu stai dicendo quelli cinesi, dai, quelli per i LED. Sì, quelli switching, certo, quelli lì. Oh, che mi ha pigliato il buco. Ma ha fatto il collegamento Luca, dopo un mese ha iniziato a scintillare, non per il collegamento che ha fatto lui, no, ma perché, boh, non lo so, ha iniziato a scintillare dentro, si è girato dal vaccone, sta prendendo fuoco. Ma guarda, io ce l'ho da un pezzo, ho messo anche l'interruttore per spegnere e accendere la ventola e va benissimo ti. Non lo so, magari era difettoso. Ma questi qua non sono cinesi, perlomeno. Quanto so io non credo che l'abbia comprato. Li faranno i cinesi, Comunque a me va bene, dai, va benissimo, non bene. Solo te costruisci uno da quelli dei computer, però non so quanti ampere dà. Guarda, intanto se l'ha preso Luca, l'ha preso dallo stesso posto, è che non per colpa loro, per carità, è perché nonno sono fatti un po' l'accacchio, quindi sono fatti un po' a risparmio, e forse perché c'è troppa cosa attaccata, cosa ne so. Aspetta un attimino. Sul 23 sono. Sì, ma non la giugana, poi stare là, non la noia, dai, perché ho anche stazionare in quell'antenna e magari brucio la radio e devo rampare. Allora, e se poi devo entrare già sono qua, se no c'è altro brumatessi. Aspetta, esce adesso, c'è qualcuno. Attacchi, certo. Attacchi una bomba, proprio sembri qua in zona. No, ma qua, questa è un'altra radio che è una radio americana. Ma è dormendo, che se no da poi si lancia troppo. Ma cosa avanza? A cattubare. Ciao Lu. Allora già venite qua, sì. Ah, è te, Don Luca, è te. Ehi! Stavo chiamando da poco fa, ma non c'era nessuno, mi ha risposto Tino. L'unico superstite è rimasto lui, mi sa, Vai Rottino. E allora? Vabbè, dormito sì. Sono sognato sto. Vabbè, in 27, in 27. Sono in 27, sono. Stiamo parlando lì. No, ma io ho un po' tutte cose, insomma, un po' di canali in ascolto, quelli che solitamente parlano. Però ogni tanto devo commutare, capito? Ho capito. È così. E Luca che fine ha fatto? Non sta più parlando. Sì, Luca dov'è? Tra poco. Lo sclero gli ha preso. No, il morbo di... Ah, allora va bene, è da capire. Sì, dai, fresco, vabbè. Diciamo che già è un po' messo male, dai. In che senso messo male? Tutti gli acciacchi che fa, poi c'è questo morbo. Vabbè, gli acciacchi ce l'avevo anche prima, poi lui basta che prende una bustina e passa tutto. Allora. Ehi, comunque ogni tanto entra, dai, anche lui, si fa sentire. Non è sempre, sono impegnato, ho lavoro, sempre travagliendi, beato lui. Meglio così, l'importante è fare qualcosa. Io te l'appoggio. Io gliela spingo. Ok, là, sono allora, se mi dovrei spingere qua sopra, diciamo fra poco, là, una porta per supportatele, tanto c'ho un'antenna lunga. Se lo dici tu, va bene. Ti ha mai ascoltato per quello, non ti preoccupare. C'è quella... Hai... come si chiama? Strana di nome, ma comunque sia 777. Quindi, lunga, un metro e qualche cosa, un metro e dieci, quello che... Ma e adesso cosa stai usando? La tela esterna sto usando. Se non arrivi segnato. Sei bloccata, bloccata cosa? Si è crepato il motore, quindi è bloccata a Badiurbala a un certo punto. Sono passato ieri, l'ho vista a Capaterra. Già l'hai vista, visto hai. Quindi a un certo punto, non ho neanche raddrizzato, non ho fatto niente. Poi la antenna, quella lunga l'ho tolta, la X300, che l'hai visto, e ci ho messo quella multibanda. Ma non è che l'hai imbriaccata questa antenna, no? Un po'. Ehi. A Giudito, non è che l'hai imbriaccata questa antenna, se cuccata? No, assolutamente no, questo di funziona. C'era Marino, funziona benissimo la X30, da me non funzionava, perché c'era la mantova 1 sotto, capito? E così l'X300, devi mettere l'antenna VHF e UHF distante almeno 2 metri, l'antenna della 27, e anche in alto, se no è inutile che ce l'hai, il discorso è quello. Ah, ho capito, e vabbè. Qua ti arrivi basso però qua, arrivi un po' disturbato. Purtroppo è così, non si può fare niente. Guarda che io con la X30, che è arrivato a Marino, l'ha usata Giancarlo, mio cognato, l'ha piazzata a Usini, cioè non la Usini, la Tizi, non riusciva a trasmettere, hai capito? Quindi, figurati più, infatti il difetto è quello. Se la metti vicino all'antenna della TV, cosa del genere, non esce, non c'è niente da fare. E così è l'altra. L'X300 l'ho staccata, l'ho messo da una parte e va a fanculo. Ho messo il discona e fa tutte le frequenze. E come mai non esce, Pompo, vicino all'antenna TV? Sto uscendo con quella mi, sto usando la riscona io adesso, mi, fatti quello che sto usando. Ma non arrivi bene. Sono lì, va bene, pazienza, cosa vuoi ti dica io? Ho girato da una parte, c'è due tipi di accentare, stai un secondo il telefono. Sì, da radio già arriva bene, e il segnale non ce n'è. Ma dai, lo sto fregato, no? Se tu vuoi correre me sotto. Oh Jesus, hai visto che flattamona, perlomeno non so se è una bufala, ci sono gli squali. Sì, mi hanno mandato il video ieri, è vero, poi non so se ci sono. Così, stavo guardando il video. Secondo me è una bufala, non è flattamona quello, ma... non lo so. Tu il video l'hai visto? Sì, vabbè, ma non si vede niente, si vede il mare, giusto, non si vede l'orizzonte, non si sa dove può essere. Speriamo di no. Se no, dove va? Andremo a pescarli. Sì, ma Marruccio, qui sì. Non è buono, già è buono. Ma quello buono da mangiare, non lo so, prima cosa che sei. La verdesca non l'hai mai mangiata. No, mai. È dalla famiglia degli squali stesso, cioè è buono. Allora, una volta l'ha presa a Franco, California, lì a Porto Torres. Gli ha fatto un casino, perché lui quando va a pescare lancia 3, 4, 5 canne da pesca. Gli ha fatto un casino questa verdesca. Era grande, mi. E stava venduta, tanto non li mangiava, l'abbiamo venduta. Vabbè. Già va bene. Cioè, si è attaccato al granchietto, pensa tu. Ma se non era granchietto, era la cozza. Strano, comunque. Capita. Ma aspetta, sto facendo confusione. Quella era una palamita, non una verdesca. Una palamita era, no. Facevo confusione. No. Infatti, comunque gli ha fatto un casino, non era lo stesso. Aspetta, guardando un video, cosa cacchio ha preso questo qua? Una rete, una rete dove c'era una tartaruga marina, tutta ingrugliolata, che... Che Ciao Mari, dormi tu c'è. Pompu non sei farato, Pompu. Ma io ti andiamo a casa di Pompu, ci beviamo una paio di birra te fresca, se ce la offre io, saliamo. Sì, lascia perdere. Oggi ho mangiato troppo, cazzo. Oggi mi sono andato a fare. E anche bevuto, quindi non ho giocato nei vannuti. Poi ho mangiato un po' di pasta, un paio di funghi fatti in verde, e frutta, boh. E poco fa mi una pasta mi sono mangiato, una frittella, boh. Oggi ho mangiato un bel poco. No, io abbiamo fatto la pasta con il ricci, ma la arrostita abbiamo fatto, un po' di bocconi, questa roba qua. E anche il padre di Maria ha arrostito, ma io non ne ho mangiato oggi. Ehi, ma ho esagerato con la pasta, mi piace troppo. La pasta è... ci vuole, è inutile. Un primo ci vuole sempre. E poi ti mangi il secondo, poi se non hai più voglia ti fermi. Ma ci... il primo non deve mancare. Ehi, io adesso già lo sto cercando di eliminare, No, vabbè, io già... grazie a Dio già... già sto bene di peso, 80 kg dai, 79, 78, dipende. Bene. Pum pum, falato Zizi. Vabbè, ti lavorando stai, sì? Sì, sempre, sempre, e beh. Ho capito. Vabbè, interessante. Adesso non so se farla quella domanda, quella... come si chiama? La cittadinanza. Perché non farla? Se la devi fare, falla. Ma solo se la va zighito non la posso fare io, capito? Quello sì, è vero. Se no sarebbe troppo bello così, no? Cosa ne dici? Anticipa. anticipo, devo... tanto vabbè, ma anticipare anticipo io perché il modello Luisa ce l'ho io. cioè non lo so, poi credo che sia tutto in casa, no? Vabbè, cosa c'entra? Quella che ha fatto mica a me mi è toccato niente, non mi interessa, comunque vabbè. C'è anche la mia parte. Infatti. No, ma io se in base al reddito, per dire, se c'è da fare qualche cosa la faccio lo stesso, cosa me la futti. Solo il rompimento è che ti mandano fuori, senza mezzo, senza niente, non è che uno deve viaggiare in treno, no? Questo non lo so, ma per via del lavoro? Sì. Vabbè, tu devi dire che non, che sei senza mezzo, quindi se devi andare in treno vuol dire che devono darti anche qualcosa per il viaggio, o no? A quanto ho capito te li devi gestire per viaggiare. No, ti hanno quel tot lì, quel budget, e poi te li devi gestire tu. Comunque io ho visto che nel muso devi dichiarare che non hai un mezzo. E io un mezzo non ne ho, perché quello che ho, che uso, non è mio. Infatti quello, anche se usi, anche se tu per legge non dovresti neanche utilizzarlo, perché non è interessato a te. Ah, da quando è uscita questa legge? Ma io so che ora il mezzo va intestato solo al padrone, può utilizzarlo solo il padrone. Sì, ma sai perché? Perché se io mi faccio la residenza qua lo posso utilizzare, uno di casa lo può utilizzare. Ah, vedi, allora, non lo so, vedi un po'. Però fai quello che meglio ti conviene. Io se c'è da fare qualche domanda la faccio, se me ne affitto. Certo. Adesso vediamo, da. Comunque anticipare già anticipo io. Questo è poco ma sicuro. A meno che non fa la richiesta del modello ISE, se lo fa ristampare allora mi fotte. Andare. L'importante è anche collaborare, se no sono tempi duri. Per forza. A me visto che invece biglio ando, però io andando in bada la travaglia non vado, capito? Non ci vado, tu dici meglio che si che nuda, no? Alla fine non ci rientro più. Cosa vado? Per 30 euro ci metto la macchina, ci metto la benzina e mangiare e vado per 30 euro, ma non esiste. No, così no. Così no, non meno di 50 almeno, ma giusto per essere proprio pignori. Qua però in Sassari non è che ti puoi fare la portudora, già la portudora sei 18. Ma io lo so, non ti sta chiamando lui? Chi? Stiamo lavorando assieme. Sì, ogni tanto già se qualcosa ce la facciamo, sì. Lui sì. Quando capita che riesce mi chiama, andiamo lo facciamo. Ma non finne, non c'è nulla in giro, no? Non c'è niente. La gente cioè, vuole risparmiare, ma rispari un prezzo, adesso faccio un esempio, fa un appartamento in bianca di 402 euro, dice che è troppo. E magari trova quello che glielo fa a 350, facciamo pure a 300. E così è. Beh, dipende cosa c'è da fare, cosa... tante altre cose, dai, poi uno valuta, perché magari me ne dai un pochino di meno, però me ne dai per sempre, allora è un conto, se invece me ne dai una volta ogni tanto non andare. Lo so, però la gente fa così, te lo frega, dai, se tu non glielo fai, cioè se non accetta i 400, magari trova quello che glielo fa per 350, te lo perdi. Ma io stavo aspettando due risposte, dovevo imbiancare due case, due appartamenti. Una vabbè a marzo, adesso l'altra mi ha detto da poco una signora, non si è fatta più sentire, aspettiamo, se no. Sì. Oh, gialla dalla nicotina, gialla. Tu ci che? Una bella casa, senti chi va di là, Tu pensa che lui era un... in banca lavorava, era un quello che comanda, come si chiama? Direttore di banca, sì, qua a Sassari. Vabbè, sono sempre quelli che ce li hanno e non vogliono spendere più del dovuto, però no, vabbè, no, di soldi lì non ne ho parlato, la verità, ma è grande la casa, infatti dovevo andare con Luca e Luca gli faceva il preventivo. Ma quello era un preventivo, non è un preventivo da 400 euro perché è molto molto grande la casa. Vabbè, non lo so i preventivi che fa lui come sono. No, vabbè, li fa lui perché io non li gioco, non so quantificare, ecco, non lo so. Lui sa più o meno così i prezzi giusti, dai. Perché, ripeto, la casa è molto grande, ha due piani. Vabbè. Andavè. Tu c'hai sempre tutto, ti 440, ce l'hai sempre. Ma io ho recuperato anche qualche radio che avevo in giro. Qualche microfono, così adesso ce li ho tutti quanti in un mobiletto e... ce li ho tutti quanti messi qua, diciamo. Perché prima ne avevo un po' in un armadio, uno nell'altro, e non riuscivo mai a utilizzarli, invece adesso ho procurato un mobiletto bellino e li ho messi tutti quanti, diciamo quasi tutti operativi, tramite un commutatore di antenna a 6 pulsi. Hai tante radio attaccate. Vabbè, ma con un'unica antenna, quindi devo commutare con due commutatori per, se voglio andare a predire con il grande, commuto direttamente antenna sua e va tranquillo. Poi se invece voglio commutare con gli altri, devo commutare con la 2 e poi con la 5 per varie radio, capito? Ascolta, ma stai usando quell'antenna che ti ho dato io, quella vi piazzato, l'avevi riparata, l'antenna? La manto che ti ho dato io, che fine ha fatto? Io ce l'ho, sì, ma l'ho piazzata. Te l'hai piazzata, te funziona bene, sì? Sì, va bene. E invece quella che ho smontato adesso sicuramente la regalo a Antonio Riserva, che sta proprio piazzata in campagna. Ieri è entrato qua. Devo tagliare la frequenza. Era da queste parti, deve essere. O ce l'avevo in macchina. No, in macchina. Sì. Già due volte l'ho sentito. Vabbè. Siamo piazza in campagna. Già una riga non entra in 27, Antonio. Vabbè. Però. Adesso gli è venuta nuovamente la mania. Dimmi una cosa, ma ne hai alimentatori tu di quelli, i classici? I classici quale? I classici, quelli da 20 ampere, ma non di quelli switching. No, io ne ho solo uno. C'ho quello da 25 ampere della Delta G. Quello ce l'ho qua, in casa di la mia... Ah, ho capito. Vabbè. Dai un'occhiata, ci sono, Sì. Ce ne sono tanti. Sì, però dipende, perché io i prezzi proprio non li so, stavo contando da uno, che era un 30 ampere, un 60 euro, vediamo com'è. Ma tu come lo vuoi a cosa? Non lo vuoi normale, diciamo, quelli, i classici, dai, quelli a trasformatore? Allora, quelli con i classici spinuti rosso e nero. Io ho trovato, io questo da 25 ampere, da ZG. Una cosa del genere, perché sto pilotando tutto quanto col PS50, capito? Con un unico alimentatore. E non ce la fa? Ce la fa, però voglio lasciarlo solo per il Kimdur lì. Ah, tu vuoi alimentare solo il 140, ho capito. Aspetta, fai che l'avevo visto, mi sa che... Aspetta, guarda un attimo, mi sa che l'avevo visto nel gruppo, un tipo lo stava vendendo, ma non mi ricordo quanto, aspetta. Prova a vedere. Sì, buonasera anche a lui. Buonasera. Finito avete di giocare sul 23? Ah? Ho detto, avete finito di giocare sul 23? Ci ha sentato attorno un attimino. E in attesa ho acceso questo a vedere un po' chi c'era e ho sentito a voi. Mimì, Luca sta vendendo un pezzo di cavo con dei pezzi di plastica, cos'è, una lupo, vai Luca Flipper, siamo mai fuori di testa. Ah, ma c'è ancora? Boh, io sono qualche mese senza sentirlo. Ehi, c'è una luce di cosci di pollo, che sura, Edo. Oh, stamattina eravamo insieme. E là si fa vedere ogni tanto, vai. Così che stasera non l'ho sentito per niente. Ma ho sentito che si stava preparando il fuoco per arrossire cosci di pollo. Già va bene, su buoni. No, è perché ero su Facebook, adesso ho visto una sua inserzione. Bella, sempre indaffarato, sempre sperimentando, sa. Io lo chiamo Archimede adesso, non più Luca Flip. Archimede, bisogna chiamarlo, che sta inventando sempre. E allora, Oia. Tino. Eia. Mi intendi? Ehi, dimmi. Ah, c'è il volume basso, vaffan Napoli. Allora, ce n'è uno qua. Alimentatore 12 volt, 30 ampere, 50 euro. E mandami la foto, fammelo vedere. Però non ha strumenti, niente. Semplice. Fotti! Eia! Ma l'alimentatore ti serve? Sì, sono senza alimentatore in queste radio piccole e lo voglio... Siccome sto andando con il PS50, lo voglio separare, voglio il PS50 usarlo solo col Kimbo e l'altro alimentare le altre radio, capito Giovanni? Io ne ho comprato uno, ma sarà 5 o 6 mesi fa, me l'aveva ordinato Luca, da 50 per quella della Telecom, e non l'ho mai usato perché avevo dato questo che c'avevo io che si bloccava, ma mi è arrivato, mi hanno riparato quell'altro, non l'ho acceso nemmeno, dentro la scatola, e nuovo, non l'ho usato nemmeno, della Telecom. No, non ce l'ho neanche presente, Jean-Marie. Ma lo stai vendendo? Intanto cosa me ne faccio? Sempre da una parte lì buttato. Così che io, a me mi hanno riparato quello che c'avevo, quello grande da 50 per. E quello là non l'ho usato, nulla, non l'ho usato niente. L'ho tolto dalla scatola a guardarlo e non l'ho usato. Se ne può vedere, dai, si può guardare, parliamo, magari mandami qualche foto così lo vedo un pochino e vediamo se va bene, si può prendere Giovanni, molto ne vuoi. Non so quanto costa adesso, ma vabbè, non te lo darò come, non lo pagherai come nuovo, comunque vediamo un po', ti te lo faccio vedere se eventualmente adesso domani faccio la foto, già te lo mando sullo scafo. Su WhatsApp mandamelo, già ce l'hai il mio numero, sì. Io ce l'ho il numero tuo, d'accordo, allora ti. Tanto io non l'ho mai usato, me l'aveva ordinato Luca, siccome avevo dato all'amico nostro che tu conosci a riparare, me l'ha riparato e me l'ha dato subito, capito? Così che non l'ho usato quello lì. Oh Tino. Ehi, va bene Giovanni, ne volete che non sia quelli cinesi, switching, che a quelli mi stava prendendo fuoco, che se, insomma, ho dovuto prendere la finestra per buttarcelo fuori. Dimmi tu. Comunque, domani te lo mando, ti dai. Adesso non posso, ma domani te lo mando senz'altro. Ok. Poi ce n'è un altro, alimentatore tipo come il mio, quello mi ha fatto Gio Maria. 30 ampere, 13,50 euro. Già mai, va bene. No, lui non è voglio di quelli switching che... Allora, sai cosa succede? Che io molte volte lascio le radio accese, no? Me ne esco fuori e se poi prende fuoco parte tutto quanto qua. No, no, voglio una cosa un pochino più tranquilla, più... insomma, più seria. Vabbè, comunque costano una cazzata. Io lo uso, va benissimo, solo che te poi te lo devi modificare, eh. Non è che tu prendi lo attacchi, devi mettere gli spinotti e ne va a travagli. Ma lo so, me l'ha fatto Luca Flipper a me, il lavoro l'ha fatto anche bene, che forse era difettoso, forse... Guarda, era il caso che una sera avevo gli apparati accesi ed ero sdraiato nel divano, ogni tanto sentivo... Cazzo, una cosa del genere, ma poi non aumentano fino a che si è accesa la fiammella, no, ma lascia perdere, no. Vabbè, certo, se è così, allora niente. Poi da 50 ampere costa 17,50 euro. E questa non è una cazzata. Aspetta, vediamo un po' se riesco a trovarne uno di tipo quello che c'ho io, aspetta, va. Vabbè, poi, se è conveniente quello di Gio Maria, ce l'ho anche a portata di mano, lo vedo e vediamo com'è, dai. Perché non so neanche com'è questo che sta dicendo lui. L'Enel, non so presente. Gio Maria. Beh, deve essere che si è spostato, dai. Che è qua? No, che mi... ce l'hai quel gruppo CB Baracchino Radio Amico CB, il gruppo ufficiale? No. Ogni tanto mettono delle radio, adesso qua c'è l'MB4 con due portatili, un Inter che dovrebbe essere un FM500S e un altro che non so cosa cacchio, non mi sembra di non averlo neanche conosciuto, ho un sacco di cose vendono. No, io ogni tanto ne prendo qualche cosa. Vabbè, tanto tu non te ne compare quando non vuoi nessuno. Vabbè. Così, cosa vuoi? La passione, averle, tante cose. Ogni tanto ci si sente con degli amici, quindi. Vabbè. Farsi due chiacchiere va bene, va. Se rientriamo un po' tutti, magari. Poi vabbè, c'è chi ha impegni, io per esempio. Dopo una certa ora sono qua, e da qua non imbatte, da casa magari imbatte di più, ma a casa ci sono poco, la mattina ci sono, ma la mattina molte volte sto facendo cosa, non ho tempo manco di entrare. La sera magari un po' di più, ma purtroppo io rientro tardi a casa. Vabbè, ci andrà bene, dai. Ciao Mari, e fratello c'è mangiando? Cosa? Con la batteria stava andando. Sicuramente, poi lì si è scaricata la batteria. Là, comunque quello che mi ha dato Gio Maria, gli ho messo l'interruttore e poi due uscite da 12. Una c'era già da prima, insomma l'aveva fatta Luca quella. E una gliel'ho aggiunta io. E io ne avevo lo stesso, me l'avevo messo due neri e due rossi, frontali però. E poi l'attacco dell'alimentazione dietro, tutto ben sigillato, con la colla a caldo, ben riparato, ma la cosa è partita dall'interno, capito? A me non mi ha mai dato, vabbè, poi chissà cosa, magari questi componenti sono così una cazzata perché hanno dei componenti, non ha niente. è quello, se ne basti uno, boh, ciao. Riserva. E allora? Ti ho salutato, sono entrato a casa, sono nel viotto. A casa tua sì? No, sto rientrando, sono vicino a te. Ah, infatti sei a fondo scala. Già lo sai. Infatti adesso lo saluto perché tra un po' non ti sento più. Anzi, non mi senti più. Io già... Penso di ascoltarti comunque. Bene, ripeti, dai. Salutami il pericolo. Amico, con Luca qua non so se lo ascolti tu. No, ti sento solo a te. Dai, riprendete. Potevi passare oggi a prenderti quell'antenna, Sì, vabbè, intanto ci devo finire a portarti quella roba là. Adesso lunedì, domani te lo ritiro e poi ci sentiamo e così me lo prendo quando ti porto quella roba lì. Ergolo. Vabbè, dimmi quando ti arriva quel telecomando che c'è adesso esterico che è ancora sempre sul canale Boeing. Domani mattina ti mi ha detto. Dove sei? Nella discesa adesso? No, sono quasi fuori. Adesso stai quasi in mezzo al QRM, ma già riesco a sentirti ancora. Ma con il pergolo sì. Stia sentito Luca. Era poco fa che lo sento. Antonio. Oh, non intendo più. L'abbiamo perso, si è scaricata la batteria. Antu. C'è questo cavolo di antenna che sembra un'antenna di quelle che si usavano nei televisori prima, quelle telescopiche, ti ricordi? E dove ce l'ha? Nel Baufen. Non ci ho pensato mai a prestargli questa qua. Ah, di quelle ci ha messo? Di quelle che si allungano, tipo quelle della radio, della radio normale. Ho capito, quelle telescopiche. Comunque ce la fa, dai, io ieri lo sentivo bene. Adesso poco fa lo sentivo bene lo stesso. All'inizio no, ma dopo un po' sì. Perché prima di intraprendere la discesa praticamente vede tutto la telecamera in piedi, quindi è un po' più in alto. Anto, non ti sento più, va bene. Dai, ricordatelo, poi al limite proviamo anche questo antennino. Non lo sento più io, non zero. Gio Maria, ma sarà il 27 Gio Maria. Aspetta che sto ascoltando un'altra frequenza. Luca! A Gio Maria. A cosa c'è ti? Ti stavo chiamando poco fa, Allora se senta te, l'ho fatto la foto, io l'ho mandata a vedere un po'. Pensavo avevi finito la batteria. Come? Ho detto, pensavo che si è scaricata la batteria. Ho capito. Tino, ci sei? Sì. Io l'avevo preso quando c'avevo quell'altro guasto, no? Allora l'abbiamo data una a ripararmelo, però l'avevo già ordinato quello lì, da 50 ampere. Non l'ho mai usato, Non l'ho mai usato. Ce l'ho sempre al trabaglio lì. Adesso mi ho sentito, stavo cercando l'alimentatore, si interessa. Però non mi ricordo quanto l'avevo pagato. Poi basta guardare l'Intec, il computer, sappiamo subito quanto costa. Adesso lo guardo e vediamo un po' su quanto costa, capito, nuovo? Va bene, dai, poi se mi fai un buon prezzo già ne parliamo, dai. Ripeto, non l'ho usato, non l'ho usato, però... Se passa con la mano rimane qualche cosa in meno, bisogna andarglielo là. Ma gli strumenti c'ha anche? Adesso guarda, non mi ricordo quanto l'ho pagato, nella verità. Adesso lo guardo lui, dai, mi assento un attimino. Giomari, questo alimentatore ha gli strumenti? No, c'ha uno strumento grande che fa amperometro e voltometro. Un voltometro rotondo c'ha. Ho capito, guarda, siamo qua. Adesso te lo mandate pure e lo vedi. Sì, si chiama Telecom questo, è un switching power supply RPS 1250 SW. Adesso vedo, mi devo allontanare un attimino. Arrivato anche lui, Luca. Giomari. Ehi. Scusa, stavo chiamando da altre parti a fare delle prove. Spissola. Ti sentivo, io sto provando quanto. Beh, sto a posto, sì. Vabbè, dai, mi devo allontanare. Giomari, fammi sapere, dai, ok. Ciao a tutti. Ascolta, scusa, c'era la soprammodulazione. Ma visto lei, te l'ho mandato. Sì, l'ho visto. Fammi sapere, vediamo un po', al limite lo proviamo, vediamo cosa... Quanto ne vuoi, vediamo un pochino, dai. Sì, entro la settimana te lo faccio sapere, va bene. È nuovo e non l'ho stato mai usato. Ok, d'accordo, entro la settimana ti faccio sapere, va bene? D'accordo, ciao a tutti, ciao. Ok, ciao. Ah, chi si ho? Bimbe, chi chiama? Marino, tu sei?